Non pensa come farli, non pensa come usarli, no, no, pensa ad affrontarli e annientarli. Stai attento, fate qui, non si scherza. Il capo del mondo, il capo dell'essenza, una presenza di vedata senza. Divento un macigno che cade in testa. Molto amici quando si ha il dinero, zero amici sono nel buio testa. Non muovo i chili, non leggo i libri. Questo è un mondo di tutto i numeri. I primi ormai non conta più cosa scrivi, ma quanto visual fai con gli streaming. I'm dreaming, sei rimasto ai tempi dei primitivi. Perché urli, urli ma non ti esprimi. Prima posto in fimi, infine fai la stessa fine di grilli. Ho superato ogni aspettativa, ho preso la mira, non parlare. Gira, centira, aspira, non è più come prima. No, non è più come prima. Una delusione a volte ti fa capire che la stessa persona che iniziate è l'unica che può finire. Pensano che siamo come muri di cemento armato, ma il mio cuore disarmato è l'unico organo che mi è rimasto. È come sfregiare 100 tappeti su una ruota senza casco, hijo de puta. Guarda ora, al mio posto c'è segnato la tua ora. Manga il kid del rap, sempre il king dell'hardcore. Io sono il king della new school, bro. Non faccio come sfere, basta. Parlare di droga per me non è abbastanza. Sputo la verità in faccia. Quando uscirà il tape, tutti a casa. Ho iniziato e con me non c'era nessuno. Ho continuato, non si è fatto vivo nessuno. E ora sono arrivato, tutti a leccare il mio culo. Dai.